Sin dalla prima volta che avevo pranzato alla Raspellière con quella che a Féterne veniva chiamata ancora la giovane coppia, sebbene il signor di Cambremer e sua moglie non fossero più, e da un pezzo, di primo pelo, la vecchia marchesa m'aveva scritto una di quelle sue lettere la cui scrittura si riconosceva fra mille. Mi diceva: «Portate con voi la vostra deliziosa, incantevole, simpatica cugina. Sarà un'estasi, un piacere». Fallendo sempre in modo così immancabile la progressione di cui il destinatario delle lettere era in attesa, che finii col cambiare idea sulla natura di quei diminuendo, col crederli voluti, riscontrandovi la stessa depravazione del gusto, trasposta sul piano della mondanità, che induceva Sainte-Beuve a spezzare ogni parentela fra le parole, ad alterare ogni espressione appena abituale. Due metodi, appresi senza dubbio da maestri diversi, si fronteggiavano l'uno l'altro nello stile epistolare di Madame de Cambremer, e secondo faceva sì che la marchesa riscattasse la banalità degli aggettivi multipli impiegandoli in una gamma discendente, evitando di chiudere sull'accordo perfetto. In compenso, ero incline a vedere in tali gradazioni inverse non più una raffinatezza, come quando erano opera della marchesa madre, ma una semplice goffaggine. Ogni volta che a usarle erano il marchese, suo figlio o le sue cugine. In tutta la famiglia, infatti, sino a un grado di parentela abbastanza remoto e in virtù di un'imitazione ammirativa di zia Zelia, la regola dei tre aggettivi era altamente onorata, così come un certo modo entusiastico di riprendere fiato parlando. Imitazione passata nel sangue, d'altronde, e quando in famiglia una bambina ancora piccolissima, parlando, faceva una pausa per inghiottire la saliva, si commentava: «Appreso da zia Zelia». Si capiva bene che, fra non molto, le sue labbra avrebbero cominciato a ombreggiarsi d'una leggera peluria, e ci si riprometteva di coltivare in lei le immancabili disposizioni alla musica. I rapporti dei Cambremer con Madame Verdurin non tardarono ad essere, per varie ragioni, meno perfetti che con me. Pensavano di invitarla. La giovane marchesa mi diceva sdegnosamente: «Non vedo perché non invitarla, quella donna. In campagna si frequenta un po' di tutto e senza conseguenze». Ma sotto sotto, piuttosto impressionati, non smettevano di consultarmi sul modo di realizzare la progettata cortesia. Poiché ci avevano invitati a pranzo, Albertine e me, con certi amici di Saint-Loup, gente elegante della zona, proprietari del castello di Gourville ed esponenti di qualcosa di più della migliore società normanna che Madame Verdurin, facendo finta di niente, appetiva, consigliai a Cambremer di invitare la padrona assieme a loro. Ma i castellani di Féterne, nel timore, a tal punto erano timidi, di scontentare i loro nobili amici, oppure a tal punto erano ingenui, che i Verdurin si annoiassero con persone non intellettuali o ancora, impregnati com'erano d'uno spirito abitudinario non fecondato dall'esperienza, di farci lecca, mescolando i generi, dichiararono che non avrebbero legato, che la cosa non sarebbe quagliata e che era meglio riservare Madame Verdurin, che sarebbe stata invitata con tutto il suo piccolo gruppo, per un altro pranzo. Per il primo, quello elegante con gli amici di Saint-Loup, non invitarono del gruppo che Morel, perché il signor di Charlieu fosse indirettamente informato delle persone brillanti che essi ricevevano e anche perché il musicista costituisse un elemento di svago per gli ospiti dal momento che gli avrebbero chiesto di portare il violino. Gli aggiunsero Cottard, perché il signor di Cambremer affermò che aveva brio e figurava bene in un pranzo e che inoltre poteva far comodo essere in buoni rapporti con un medico, casomai si fosse ammalato qualcuno. Ma lo invitarono da solo, per non creare precedenti con la moglie. Madame Verdurin si indignò quando seppe che due membri del gruppo erano stati invitati a Féterne senza di lei per un pranzo fra intimi. Dettò a Cottard, il cui primo impulso era stato d'accettare, una fiera risposta in cui diceva: «Quella sera siamo a pranzo da Madame Verdurin». plurale che doveva servire da lezione ai Cambremer, mostrando loro che il dottore non era separabile da sua moglie. Quanto a Morel, Madame Verdurin non ebbe bisogno di suggerirgli un comportamento scortese, che egli adottò spontaneamente. Ecco perché. Se, per quanto concerneva i suoi piaceri, egli aveva nei confronti del signor di Charlus un'indipendenza di cui questi soffriva, abbiamo visto come la sua influenza si facesse maggiormente sentire in altri campi e come, per esempio, il barone avesse ampliato le conoscenze musicali e reso più puro lo stile del virtuoso. Ma era ancora, almeno a questo stadio del nostro racconto, un'influenza, niente di più. In compenso c'era un terreno nel quale ciò che Charlus diceva era ciecamente creduto e messo in atto da Morel, ciecamente e follemente, giacché non solo gli insegnamenti di Charlus erano falsi, ma quand'anche fossero stati validi per un aristocratico, applicati alla lettera da Morel, diventavano ridicoli. Il terreno in cui Morel diventava così credulo ed era così docile al suo padrone era quello mondano. Il violinista, che prima di conoscere Charlus non possedeva alcuna nozione dell'alta società, aveva preso alla lettera lo schizzo altero e sommario che gliene aveva tracciato il barone. «C'è un certo numero di famiglie eminenti», gli aveva detto Charlus, «prima di tutto i Guermont, che contano 14 matrimoni con la casa di Francia, il che d'altronde è lusinghiero soprattutto per la casa di Francia, dal momento che ad Aldonce de Guermont e non a Luigi il Grosso, suo fratello consanguigno ma minore sarebbe dovuto toccare il trono di Francia. Sotto Luigi XIV prendemmo il lutto per la morte di Monsieur, avendo la stessa nonna del re. Benché molto al di sotto dei Guermont, sono da menzionare i La Tremoille, discendenti dei re di Napoli e dei conti di Poitiers, i Dusé, che poco antichi come famiglia sono tuttavia i più antichi pari, i Liuin, affatto recenti ma illustrati da grandi matrimoni, gli Choiseul, gli Harcourt, i La Rochefoucauld. Aggiungete ancora i Noailles, malgrado il conte di Toulouse, i Montesquieu, i Castellan e, salvo dimenticanze, è tutto. Quanto a tutti i piccoli signori che si chiamano Marchese di Cambremerde e di Vallapprendere, non c'è alcuna differenza fra loro e l'ultima recluta del vostro reggimento. Che vi venga in mente di andare a fare pipì dalla contessa Cacca o la Cacca dalla baronessa Pipì è la stessa cosa. Comprometterete la vostra reputazione usando uno strofinaccio merdoso come carta igienica, il che è ben poco igienico. Morel aveva fatto devotamente sua questa lezione di storia, forse un tantino sommaria. Giudicava le cose come fosse lui stesso un Guermont e aspettava con ansia di incontrare i falsi La Tour d'Auvergne per far loro capire con una stretta di mano sdegnosa quanto poco li prendesse sul serio. Quanto ai Cambremer, ecco appunto l'occasione per informarli che non valevano più dell'ultima recluta del suo reggimento. Non rispose al loro invito e la sera del pranzo si scusò all'ultimo momento con un telegramma, estasiato come se avesse agito da principe del sangue. Bisogna aggiungere del resto che non si può immaginare quanto, più in generale, il signor di Charlus potesse essere insopportabile, pignolo e persino, lui così intelligente, stupido, ogni volta che entravano in gioco i difetti del suo carattere. Si può dire, infatti, che i difetti di carattere sono come una malattia intermittente dell'intelligenza. Chi non l'ha riscontrato in donne, persino in uomini, dotati di notevole intelligenza, ma sofferenti di nervi? Quando sono felici, calmi, soddisfatti di quanto li circonda, si fanno ammirare per le loro doti preziose. La verità parla alla lettera, per bocca loro. Un'emicrania, una piccola trafittura d'amor proprio, basta a cambiare tutto. Brusca, convulsa e rattrappita, la luminosa intelligenza non riflette più che un io irritato, sospettoso, vanesio, che fa di tutto per dispiacere. la collera dei Cambremer fu vivace e nel frattempo altri incidenti provocarono una certa tensione nei loro rapporti con il piccolo clan. Mentre tornavamo, i Cottard, Charlieu, Brichot, Morel e io, da un pranzo alla Raspellière, e poiché i Cambremer, che erano stati a colazione da certi loro amici a Rambouville, avevano fatto all'andata una parte del percorso assieme a noi, voi che amate tanto Balzac e sapete ritrovarlo nella società contemporanea, avevo detto a Charlieu. Penserete certo che questi Cambremer siano usciti dalle Chances de la Vie de Provence. Ma Charlieu, proprio come se fosse amico loro e io l'avessi offeso con la mia osservazione, mi interruppe bruscamente. «Dite così perché la moglie è superiore al marito», replicò in tono asciutto. «Oh, non volevo dire che era la musa del dipartimento, né Madame de Bargeton, sebbene...» Charlieu mi interruppe nuovamente. «Vorrete dire piuttosto Madame de Mortsauf?» Il treno si fermò e Brichot scese. «Avevamo un bel farvi segno, siete terribile. Ma di cosa parlate? Via, non ditemi che non vi siete accorto che Brichot è innamorato pazzo di Madame de Cambremer.